95 Radio Onda Rossa. Ancora qualche istante di musica e poi proveremo con questo, attraverso uno spazio di approfondimento, una mezz'oretta da, così, di ragionamenti insieme a voi e non soltanto. Proveremo a raccontare il clima che c'è in questa città, una città abbastanza particolare dove ormai ex fascisti, ex antifascisti vanno tranquillamente a braccetto. Distribuiscono patenti di tolleranza e di intolleranza secondo appunto le appartenenze. Vengono criminalizzati i momenti di lotta, avete visto quello che è successo per l'occupazione dell'8 marzo, in cui improvvisamente erano diventati una banda di mafiosi che chiedevano il pizzo agli abitanti dell'occupazione del quartiere. Dunque eccoci qui, la redazione di Radio Onda Rossa attraverso alcune trasmissioni, attraverso anche appunto da la redazione di Radio Onda Rossa tutta, è un po' che pensava questo appuntamento, visto che non abbiamo digerito nel miglior modo possibile la fiaccolata, quella contro l'intolleranza, quella che era nata un mesetto fa, se non sbaglio, in seguito ad alcune aggressioni alla comunità omosessuale romana, soprattutto dopo l'aggressione che hanno subito due ragazzi fuori al Gay Village, che così portò una levata di scudi da parte delle forze, parliamo sempre delle forze democratiche cittadine, che lanciarono una manifestazione, una fiaccolata contro l'intolleranza omofoba, contro, anche se poi il signor sindaco Alemano la chiama intolleranza sessuale come se fosse una malattia trasmettibile, comunque contro l'omofobia, contro il sessismo, una manifestazione che poi nelle settimane successive, nelle 3-4 settimane successive, ha subito una trasformazione, sono saliti un po' tutti sul carrozzone della tolleranza democratica, del vogliamoci bene, andando a trasformare e anche andando a ridisegnare politicamente quelli che sono alcuni valori che dovrebbero appartenere a questa città, ma anche un po' andare a mischiare e creare nuove collusioni politiche tra persone che fino a un po' di tempo fa avevano molto poco da spartire e anche tuttora hanno molto poco da spartire, perché vedere la comunità omosessuale che sfila in piazza insieme ad appartenenti della destra radicale romana, seppur inglobata dentro l'Alleanza Nazionale, a me lascia perplesso, ma non soltanto a me, penso un po' a tutte e tutti noi che su certi temi abbiamo un'attenzione. Dunque proviamo a fare un po' il percorso di questa mesata. Noi usiamo appunto la fiaccolata del 24 proprio come paradigma del clima che si è instaurato in questa città, soprattutto nell'ultimo annetto e mezzo, dopo che il sindaco scalatore, perché l'abbiamo visto ieri su una foto su un giornale, a un metro e mezzo d'altezza che si arrampicava, il sindaco scalatore appunto ha assunto questa carica. Buongiorno innanzitutto. Ecco, lei. Stanno ascoltando, ci siamo? Sì, sì ciao. Sì. Sì, questa fiaccolata del 24 nasceva dal fatto che a Roma c'erano state alcune aggressioni, di cui una particolarmente grave, a cui si faceva riferimento adesso, cioè due ragazzi di cui uno è stato accoltellato anche in maniera piuttosto grave davanti al Gay Village, e poi c'erano stati altri fatti, diciamo, meno gravi, ma comunque che erano in qualche modo specchio di un clima. Degli esplosivi davanti in una strada dove c'è una, diciamo, la movida GLVT a Roma, o perlomeno così si vuol far passare, eccetera. C'erano state inizialmente delle fiaccolate organizzate da una parte di gay, lesbiche e transessuali che si dicevano autoconvocati, e che quindi si staccavano in questo modo, diciamo, dalle realtà organizzate del movimento GLBT. Poi noi sappiamo che questi autoconvocati spesso non sono autoconvocati, perché in genere sono convocati da uno o più partiti, però insomma in quel contesto si dicevano autoconvocati. Entrano poi in gioco le istituzioni, in particolare entra in gioco Zingaretti, il presidente della provincia, che lancia l'idea di una fiaccolata istituzionale, quindi insomma chiamata dalle istituzioni contro l'omofobia. Questa fiaccolata poi scivola, cambia tema molto velocemente, perché vuol coinvolgere anche il sindaco Alemanno, che non sfilerebbe sotto il nome fiaccolata contro l'omofobia, e diventa una generica fiaccolata contro l'intolleranza. Questa fiaccolata contro l'intolleranza, che poi appunto c'è stata il 24 settembre, vede in piazza una stranissima composizione, perché diciamo che ci vanno una parte di associazioni del movimento GLBT che, per quanto loro si autoproclamino comunità gay, lesbica e trans, sono loro che si nominano in questo modo, perché bisognerebbe innanzitutto discutere se esiste una comunità. Secondo di poi, ovviamente esiste invece un movimento che in gran parte si dichiara antifascista, che non scenderebbe in piazza nemmeno con Alemanno, insomma, non poi con tutto quello che è entrato in gioco successivamente. Anche perché mo adesso, al di là delle appartenenze veramente politiche, antifascismo, antifascismo, categorie che tutti quanti ci spingono a dissolvere, così, qui c'è anche un problema politico, senza fermarsi veramente all'antifascismo spicciolo. Qui parliamo di un'amministrazione cittadina, ma non soltanto l'amministrazione cittadina, che sistematicamente ha lo stesso movimento a cui queste persone dicono di appartenere, sistematicamente chiude spazi, nega le piazze, nega patrocini. Dunque c'è anche un problema oggettivamente politico, proprio al di là dello schieramento, no? Che qui appunto tutti ci dicono di annacquarlo, di confonderlo e di ridisegnarlo, e noi magari siamo anche disposti in questo momento a farlo, però c'è un problema politico. Sì, c'è un problema politico piuttosto evidente, perché insomma il sindaco che attualmente è Campidoglio è un sindaco che più volte ha dichiarato le sue opposizioni al movimento GLBT, non ultimo il Pride scorso, che ci ha messo più di un mese a avere un percorso autorizzato per opposizione proprio dell'amministrazione capitolina, non della polizia, insomma seguiva in qualche modo questo percorso. Nonostante tutto ciò, questa fiaccolata viene organizzata, ci sono tutte le istituzioni, cioè regione, provincia e comune, ci sono esponenti della destra istituzionale anche non appartenenti alle istituzioni, la Mussolini per esempio, non solo, ma non basta, la Mussolini, che ricordiamo, per dirne una, che quando era l'anno scorso in televisione, 2 anni fa, disse meglio fascista che frocio, insomma, per dire come la pensa, del resto lei fascista è, per cui evidentemente se la rivendica. E non solo, ma poi accade anche il fatto di H. Larenzia, cioè qualcuno pare che tiri un petardo o qualcosa che non esplode comunque davanti a questo postaccio frequentato frequentato male, e immediatamente la fiaccolata diventa, come dire, bipartisan, diventa caratterizzata da par condicio in qualche modo, è contro l'intolleranza, contro tutte le violenze, e immediatamente si equiparano i fatti che stavano succedendo, cioè le continue aggressioni che lesbiche, gay e trans subiscono per strada sostanzialmente, e dall'altra parte questo petardo buttato davanti a questo postaccio, e quindi si comincia a dire che bisogna schierarsi allo stesso modo contro questi fatti, e che chi non si schiera allo stesso modo contro questi fatti è un intollerante, evidentemente, perché si fa guidare ideologicamente nei propri posizionamenti. La fiaccolata si tiene in una maniera che fa abbastanza accapponare la pelle, almeno per quanto mi riguarda, perché vede qualche bandiera rainbow che caratterizza il movimento GLBT insieme a un mare di tricolori portati dai fascisti di H. Larenzia, da altri invece più istituzionali, eccetera eccetera, e tutto questo ha però un contorno, di dichiarazioni eccetera, tra cui questo fatto che improvvisamente scende in campo Casa Pound e dice di voler aderire pure loro alla fiaccolata contro l'intolleranza, perché loro ovviamente non sono intolleranti, sono tolleranti, e è il sindaco Alemanno che dice no, non partecipate. Ma allora c'è subito qualcun altro che dice: ma perché? Perché non dovrebbero partecipare? In fin dei conti bisogna parlare con tutti, con tutte le diversità, e chi c'è più di diverso di Casa Pound? Bisogna essere tolleranti verso Casa Pound. E così un onorevole del Partito Democratico, Paola Concia, immediatamente fissa un tavolo con questi loschi signori che stanno qua a Piazza Vittorio e li incontra il 30 settembre, fra l'altro coinvolgendo nel suo dibattito anche un giornale di cui forse è bene parlare in questa trasmissione, perché lei spiega le sue motivazioni con un articolo a sua firma sull'altro. Sì, l'altro di cui abbiamo già parlato in alcuni spazi in questa radio, che sta un altro giornale di riferimento della nuova formazione politica uscita da Rifondazione Comunista. Io faccio sempre un po' di difficoltà ormai a ricostruire l'albero genealogico tutti questi, di questi partiti. Comunque l'altro, che fa riferimento, come dicevamo, a Sinistra e Libertà, la formazione di Nichi Vendola, che dalla sua uscita in poi sta portando avanti una strategia politica abbastanza chiara: un'apertura a destra, un confronto tra virgolette a destra, visto che, per come la vedo io, il confronto dovrebbe essere tra due parti che parlano, non far parlare un altro. Comunque, ma al di là di questo, però, come disegno, come strategia, possiamo anche rientra abbastanza in quella che poi è molto simile a quella che hanno portato avanti Zingaretti e il suo socio alla provincia, che è la regione Marrazzo, mi sfugge sempre il nome. Però come quadro ci siamo. Ora magari stacchiamo un attimo per rifiatare, e poi proveremo punto per punto un po' a sciogliere e ad aggiungere qualcos'altro. Siamo qua con Croix et Trouville, il est parti de terre brûlée, non a plus de blé, comme il y a avril, et combien le soir, pour qu'on s'y flamboie, le rouge et le noir, ne s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Tra l'altro questa canzone, appunto, si intitola Non mi lasciare, ma in questo caso di lasciarci con determinati individui non abbiamo nessun problema. Oltretutto dobbiamo anche stare attenti a che linguaggio usiamo qui in radio, visto che ci vengono così accollate delle dichiarazioni che questa radio non fa. Quando parlavamo prima del postaccio di H. Larezia, parliamo di questo nuovo centro sociale di destra aperto dall'amministrazione comunale di Roma, che si chiama Gens Romana, una birreria che si trova proprio adiacente alla sezione storica di H. Larezia, che è guidata da quel Giuliano Castellino, personaggio abbastanza conosciuto della destra radicale romana, che poi è confluito dentro l'Alleanza Nazionale, perché quando parliamo di PDL a Roma parliamo dell'ex Alleanza Nazionale, né più né meno. Comunque il signor Giuliano Castellino, personaggio abbastanza famoso, come dicevo, della destra radicale romana, visto che si è fatto tutti, ma proprio tutte le formazioni politiche esistenti, dalla vecchia Base Autonoma, passando per Forza Nuova, passando per Fiamma Tricolore, passando per l'occupazione di Casa Italia, se ne è fatte assolutamente tutte. Un uomo che ha avuto anche un coinvolgimento, tra l'altro un processo per un petardone messo fuori un cinema dove facevano il film sul evidente mito suo. Parliamo di Eichmann, il film era Lo Specialista, parliamo di una decina d'anni fa. Comunque un personaggio che dovrebbe entrarci veramente molto, ma molto poco, con tutto quello di cui stiamo parlando, ma che invece era presente in piazza con i suoi maci amici e i loro maci tricolori, tanto per farvi capire appunto quanto, quante cose strane stanno avvenendo qui a Roma e quanto spesso e volentieri è la, la lettura poi è talmente abbastanza semplice che dovremmo anche essere capaci in qualche modo di contrastarla, perché poi si rischia, come poi spesso avviene, di rimanere nell'angolo. Nel, nel frattempo abbiamo anche un collegamento, uno dei redattori del, del martedì mattina di Maldestra. Buongiorno a te. Buongiorno. Dunque, dici, allora, abbiamo fatto un po' il percorso, un po' il percorso di quello che sta avvenendo, una città abbastanza strana che sembra che non abbia più gli antichi, i cosiddetti anticorpi, così, gli anticorpi antifascisti, visto che poi nell'amministrazione comunale ci sono alcuni personaggi che sono direttamente legati e che vengono dall'amministrazione, cioè che vengono proprio dalla galassia della destra radicale romana. Castellino è un nome, ma vediamo chi è l'ufficio, il capo ufficio di gabinetto di Alemanno, parliamo del, di Lucarelli, fino a qualche anno fa il sodale di Maurizio Boccacci, e via via dicendo ci sono diversi personaggi che abbastanza impresentabili, che evidentemente sono diventati tutto ad un tratto presentabilissimi e che stanno qui a, a distribuire appunto, come dicevamo prima, patente di tolleranza e intolleranza. Sì, direi che diciamo il ragionamento, volendo, si può anche estendere, nel senso l'impressione che sia che Roma sia, lo sappiamo per storia particolare, per vicende insomma che la, la riguardano da decenni, molto prima che tutto questo emergesse in questo modo così abbastanza drammatico, sia un po' un laboratorio di una definizione della destra, quella che corre l'ultimo, dentro l'ultimo quindicennio diciamo di potere politico italiano, all'insegna della, della guida politica di Silvio Berlusconi, insomma, no? Dei governi della destra italiana, una definizione plurale che in qualche modo abbia saputo rimettere in gioco tutte le energie delle destre, come dire, ammalloppandole, non so bene come si possa dire, cioè mettendole insieme al di là delle loro differenze, talvolta anche forti, insomma, nelle loro culture politiche, nella loro progettualità, nella loro rappresentanza di pezzi diversi della società, fino ad arrivare a una costruzione egemonica che è frutto proprio del fatto che pezzi diversi, che apparentemente potrebbero anche non andare d'accordo, pezzi di interessi sociali che altrimenti potrebbero non andare d'accordo, si è spesso ricorso per definire, diciamo, questo quadro sociale all'idea che i poveri finiscono per votare per i ricchi, lo si diceva un po' di anni fa per Bush in America, ma insomma credo che valga abbastanza la situazione italiana. Questa definizione plurale di mettere insieme pezzi diversi e di costruire un'egemonia a partire da questo trova in Roma, diciamo, il suo miglior laboratorio, con, diciamo, l'ampliamento di questo percorso che già al nord mette insieme la Lega, gli ex fascisti, Forza Italia, bla bla bla, e comunque culture politiche anche differenti, fino a rappresentare, non so, in alcuni territori, che ne so, il 60%, ci sono territori del nord-est dove tutte le destre, diciamo, da Forza Nuova fino al Popolo della Libertà pigliano il 73% dei voti, no? Tipo l'Alabama del periodo della segregazione razziale come tipo di modello sociale. Bene, a Roma tutto questo diventa un progetto politico che diciamo all'ombra della candidatura e del lavoro di lunga lena tessuto da Alemanno e dai vertici di Alleanza, all'epoca era Alleanza Nazionale, poi è diventato il PDL a Roma, diciamo si costruisce con l'arruolamento di parte di quella destra radicale, ma non di quella, come talvolta succede, che vent'anni fa era finita nelle indagini su Piazza Fontana, che 35 anni fa era finita nelle, scusate, su Bologna, era finita sulle indagini di Piazza Fontana del 1969. Eccetera eccetera, ma quella che, lo dicevi giustamente tu all'inizio, un anno, due anni, tre anni, sei anni fa è passata per l'inchiesta sul movimento politico eccetera eccetera, c'è un intero personale politico che in virtù del fatto che ha magari una maggiore credibilità in alcuni territori, che è più vicina ad alcune esperienze o culture giovanili o sottoculture, come si vogliono chiamare, sparse sul territorio, consente a quella politica che diciamo entra nei salotti del potere, che vince nella stanza dei bottoni, insomma poi le metafore si sprecano, di arrivare anche fino all'ultimo baretto di periferia, l'ultima bisca, l'ultimo luogo di aggregazione, lo stadio, fosse solo per citarne uno, come diciamo come palestra sociale. Questa è questa strana città che chiaramente come dire, è la capitale di questo strano paese, che se non avesse perso da lungo tempo gli anticorpi, non solo dell'antifascismo, ma anche di una memoria sociale, cioè sapendo identificare chi sta dalla parte, diciamo, delle persone più deboli, chi sta, è stato tradizionalmente da parte non solo dei poteri forti, ma anche dei poteri localmente forti, no? dei soggetti più forti dentro gli spazi metropolitani, la società non sarebbe arrivata a darsi questa rappresentazione politica. Roma è, diciamo, il capolavoro di questa costruzione politica forte, di una storia sua particolare, che ha sempre visto la destra radicale avere un ruolo. Diciamo, questo è, credo, la situazione di fondo. Sì, no? Tra l'altro, rispetto a quello che dicevi te, quando tu parli di appunto di capolavoro di questa operazione, anche perché tutta questa retorica, diciamo, sui poteri forti, in qualche modo è quella che giustifica anche il discorso di chi poi si trova ad interloquire con questi personaggi, no? Che noi sentiamo anche spesso anche dalle colonne dell'altro, come abbiamo citato prima, che andare in qualche modo a porre un problema su Casa Pound sarebbe secondo loro miope, perché appunto il problema sono i poteri forti, il problema è magari, che ne so, Maroni con la legge contro l'immigrazione e quant'altro, non certo Casa Pound, in qualche modo non riuscendo neanche a riconoscere, no, l'assoluta internità poi invece, appunto, come dicevi te, di questi personaggi al quadro un po' più ampio, appunto, di governance, di governo, eccetera, no? Sì, io credo che, diciamo, visto che si parlava appunto di una città smemorata, credo che il primo processo che si deve rimettere in atto quando si vuole, diciamo, tornare a capire ciò che è accaduto nel passato e ciò che accade oggi, è, diciamo, ripristinare una sorta di piano della realtà. Il piano della realtà, dal nostro punto di vista, credo che si configuri come l'idea di dare un nome alle cose, non un nome, come dire, chiariamolo, no? Perché magari ci sono dei fraintendimenti, non un nome predefinito, ideologico, che impedisce a chiunque a sinistra di leggere cambiamenti in sé e negli altri. La sinistra è molto cambiata, le destre, tutte le destre sono molto cambiate, ci sono tante culture, no? L'abbiamo detto prima, altrimenti non si sarebbero probabilmente messe insieme fino a costruire questa egemonia culturale e politica sul paese. Quindi pronti a stupirsi e soprattutto pronti, come credo che sia processo unico per conoscere la realtà, pronti a capire ciò che accade intorno a noi, e ciò che accade intorno a noi per definizione non può essere sempre uguale a se stesso. Il punto è proprio questo. L'impressione, con quello che tu citavi ora, l'ultimo passaggio, è che qualcuno si stia in questo momento non ponendo più il problema di comprendere la realtà e sovrapponga una costruzione culturale, ideologica. A sinistra lo conosciamo, ci sono state, diciamo, amplissime costruzioni di questo tipo, pensiamo soltanto che cosa è stato lo stalinismo, no? Una costruzione ideologica sovrapposta alla realtà che ha prodotto milioni di morti da sinistra, ok? Quindi non è che questa cosa non riguardi la famiglia politica della sinistra. Bene, qualcuno ritiene oggi di costruire un'operazione politica che nulla ha a che fare con la fotografia della realtà, altrimenti, diciamo, la stessa operazione politica risulterebbe impossibile. Mi fermo con questa sottolineatura. Guarda, il problema, secondo me, poi volevo anche porre un paio di domande così su cui ragionare tutti quanti insieme. Il problema, come dicevi, così, se mi posso collegare a quello che dicevi, è fondamentalmente che poi tutta questa costruzione di cui stavi parlando avviene anche e soprattutto grazie al fatto che trovano una sponda su quella che dovrebbe essere la loro controparte politica. A me piacerebbe sapere, e poi un giorno lo chiederemo magari nelle prossime settimane, anche l'appartenente dell'associazionismo GLBT e via dicendo, il perché in un momento in cui uno potrebbe anche far pesare la propria condizione, anche la propria forza, perché quando acquisisce una certa visibilità, quando tutti quanti si indignano per gli attacchi subiti da una comunità, è la comunità stessa a puntare al ribasso e a cercare accordi con un'amministrazione cittadina che comunque lì è politicamente ostile, perché non è che lo diciamo noi, lo dicono le politiche che poi portano avanti sia i governi cittadini che i governi nazionali. Mi piacerebbe capire il perché. Io sinceramente non ho una risposta, soltanto chi si è reso protagonista in queste settimane di incontri e via dicendo potrebbe darcela, però è abbastanza curioso e anche grave il fatto che tutto ciò avvenga grazie all'avallo di, appunto, di una parte dell'associazionismo GLBT, all'avallo del PD, all'avallo di Sinistra e Libertà, attraverso un giornale che continua a portare avanti, appunto, questa operazione politica. Questo, secondo me, è la lece, è uno dei punti su cui bisognerebbe, oltre che con cui discutere con la controparte, dare un senso, perché io personalmente veramente trovo poco senso. Possibile che la comunità GLBT romana o una parte di essa si accontenta di 4 telecamere su quella che viene anche volgarmente chiamata Gay Street, ossia quell'area lì a San Giovanni dove è diventato il punto di ritrovo di una parte della comunità? Beh, mi sembra veramente molto molto poco. Possibile che in un momento di forza non si riesca a spostare l'amministrazione cittadina verso veramente una sensibilità che non sia una sensibilità di facciata, oddio basta brutti, basta violenza, basta cattivi, perché questo comunque, o comunque a ridurlo come hanno fatto per mesi e mesi a fenomeni di delinquenza minorile o a fenomeni di bullismo, come cosa che ci ha raccontato questo sindaco per settimane. Poi di fronte all'accoltellato estivo ha detto: ah no, forse il problema è anche un altro, per poi riannacquarlo nuovamente. Diciamo che rispetto a questo quadro, io tenterei, anche forse per favorire magari l'intervento o l'interesse degli ascoltatori, a scomporre gli elementi di quanto tu dicevi, proprio perché penso, appunto, che valga la pena su questa vicenda, che ho l'impressione rischi di produrre come esito diciamo un passaggio di fase, no? Quindi ritrovarci un domani in una realtà profondamente modificata da quanto è accaduto. Però già l'ha prodotto, forse secondo me è questo, esatto, il problema, che già l'ha, esatto, prodotto, e facciamo fatica a riconoscerlo noi, che oppure siamo talmente sorpresi e stupefatti di ciò che sta avvenendo che veramente abbiamo difficoltà ad acquisirlo o a capire o a comprendere la realtà. È quello che dicevi tu, cioè il fatto che una campagna di violenza nei confronti di una minoranza cittadina, identificata a partire, diciamo, dalla sua vita affettiva e sessuale, presa di mira, si saldi, diciamo, alla fine si concluda con l'individuazione del sindaco, personaggio che ha in questi anni legittimato la destra radicale, che viene da una cultura politica intollerante, che è l'erede politico, certo, attraverso molti passaggi, di una cultura che ha sempre fatto, diciamo, della discriminazione, eccetera, una delle proprie caratteristiche. Questo è storicamente il fascismo, al di là delle sue esperienze, come dire, storiche, concrete, culturali, evoluzioni, ok? Bene, che quella campagna di violenza venga, in qualche modo serva alla fine di questo percorso, a dimostrare che questo sindaco è il garante della tolleranza in città, ci dice che questo passaggio si è già prodotto, no? Quindi da questo punto di vista hai assolutamente ragione. Quello che io proponevo era semplicemente, per brevissimi punti, molto rapidamente, di scomporre quanto è accaduto, proprio perché secondo me ci consente di diciamo ampliare anche l'orizzonte della riflessione. Allora, da un lato è probabilmente comprensibile che le realtà sociali che si muovono sul territorio si pongano anche il problema, quindi non parliamo di realtà politiche, di realtà sociali aggregative, si pongano il problema di trovare una forma di confronto con i poteri in quel momento esercitati. Quindi, che, lo dico proprio direttamente, le associazioni che si rifanno all'esperienza della cosiddetta Gay Street possano ritenere più tranquillizzante, come dire, avere una sorta di patto di non belligeranza con la giunta alemanna, visto che sono impegnate a garantire la sopravvivenza di quell'esperienza, che è un'esperienza comunitaria prima che politica, non ideologica, di persone che vogliono trovarsi liberamente in uno spazio della metropoli a vivere come vogliono senza che nessuno gli crei problemi. Questo è un elemento. Altro elemento. Scusa, se si aggiungo, col rischio anche di ghettizzarsi, perché poi fare, sì, appunto, però, la, diciamo, retta, il quartierino dove incontrarsi. Però, diciamo, in questo possiamo anche dire che ognuno, se vuole, è padrone di ghettizzarsi come, no? Come preferisce, no? Sì, ma dietro c'è anche tutto un altro discorso, che è quello della commercializzazione, e dell'uso commerciale, insomma, della diciamo dell'aggregazione GLBT. Io non dimenticherei che nella Gay Street ci stanno alcuni locali commerciali che di politico non hanno assolutamente nulla, che hanno un padrino che sostanzialmente è il presidente di Arcigay Roma, che non posso scindere più di tanto da chi ha convocato quella fiaccolata, perché Marrazzo si chiama pure questo, il presidente di Arcigay Roma è sostanzialmente una persona molto molto vicina a Zingaretti, che ha fatto la campagna elettorale per Zingaretti, che si è candidato nelle sue liste, eccetera eccetera. Quindi anche indicare in questo un bisogno di una comunità, insomma di bisogni indotti ce ne sono tanti in questa comunità GLBT, che a partire dagli Stati Uniti è stata fagocitata dal mercato in ampi settori. Certo, diciamo che io cercavo di scomporre gli elementi per mettere, è chiaro che l'esito di questa vicenda è l'incontro di una serie di interessi. Tu ne hai individuato uno, no? Ovviamente. Cioè stiamo parlando del fatto che definire uno spazio comunitario e trattare con i poteri presenti per garantirlo significa anche garantire che cosa c'è dentro quello spazio comunitario, che sono sia interessi economici, commerciali, sia interessi anche di rappresentanza politica esclusiva. Qualcuno dice: io sono il portavoce, la rappresentanza unica della realtà GLBT romana, e tratto col comune, col municipio. Okay. Questo è un elemento che però diciamo è una parte, no, di quanto è accaduto. L'altro elemento riguarda invece diciamo un'iniziativa politica che in quanto tale non parte dalla necessità presunta o presumibile, in cui è peraltro contenuto quanto tu osservavi, di una sorta di tranquilla gestione, cogestione degli spazi dentro la quale ci sono poi gli interessi, ma è un progetto politico che come tale tende a predefinire un esito, a costruire qualcosa che oggi ancora non è presente. Bene, quello che abbiamo visto in questa settimana, ma che ha una storia diciamo, negli scorsi mesi, ci dice che qualcuno ritiene in questa città di operare una sorta di incontro con quegli elementi delle culture della destra radicale, provenienti dalle culture della destra radicale, che negli ultimi anni si sono via via definiti sempre di più come una sorta di avanguardia territoriale, giovanile e sociale del pacchetto politico, non so come altro definirlo, berlusconiano. In particolare le cosiddette occupazioni non conformi, tutto diciamo, il circuito che fa riferimento a Casa Pound, hanno avuto un'evoluzione in questi anni. Alcuni pezzi se ne sono andati da quell'esperienza per integrare direttamente le forze del Popolo della Libertà, si diceva prima Castellino, una parte di queste occupazioni, quelle che avevano sede nel quartiere Prati, eccetera. Altri, Casa Pound in particolare, e il resto del circuito sono rimasti all'esterno con un rapporto dialettico sempre più forte. Mi viene da fare un esempio: si dice spesso che nella Russia di Putin la destra radicale ha un rapporto molto forte con Putin. Putin tollera, protegge e sostiene le loro azioni, e loro riconoscono in Putin diciamo la figura del ritorno sulla scena politica del nazismo russo. Se prendete le cose che il capofila diciamo del circuito di Casa Pound eccetera scrive su Berlusconi, parlo di Gabriele Adinolfi, passato da terza posizione a questo ruolo di guru diciamo del giovani fascisti del terzo millennio, sostanzialmente si parla di Berlusconi come di una figura che ha riportato l'idea di nazione, l'italianità e bla bla bla. Quindi qualcosa di molto simile. Bene, qualcuno a sinistra ritiene che il dialogo con questi personaggi sia altro dal dialogo che si potrebbe, ripeto, ognuno è legittimamente in grado di scegliere, di decidere, e non si tratta di fare la censura, si tratta di capire e di dare un nome alle operazioni politiche, e che chi le compie abbia in qualche modo il coraggio di chiamarle per quello che sono delle operazioni politiche. Bene, qualcuno ritiene che dialogare con questi signori, che sono a tutti gli effetti un avamposto giovanile del Popolo della Libertà e del modello culturale, prima ancora che politico e organizzativo di Berlusconi, ma dico Berlusconi per definire quell'insieme, ovviamente un po' come mi interessa insomma la sua figura, sia altra cosa che dialogare con il Popolo della Libertà in quanto tale. Scendo diciamo dall'esempio e faccio proprio un paragone concreto. Parlare con Iannone, Adinolfi, gli esponenti della cultura diciamo della destra radicale romana che fa riferimento a questa scena, dal mio punto di vista non ha alcuna differenza con il parlare con Brunetta, Saccori, Tremonti, Cicchitto, costruire un'iniziativa culturale con Sandro Bondi. Perché non invitare Sandro Bondi a leggere le poesie dentro un centro sociale di destra? Del resto, e finisco, questo elemento è stato superato, perché nelle occupazioni non conformi, nell'alterità rivelata culturalmente del futurismo, del terzo millennio, tutte queste cose qua, sono stati invitati esponenti del governo, esponenti di primo piano o del governo o della maggioranza politica che sostiene questo governo, da Stefania Craxi a Marcello Dell'Utri. Cioè si è data... Tutti intellettuali voi, Sì, si è dato lo spazio a, diciamo, queste figure, non tanto ovviamente, come dici tu, ironicamente, perché abbiano qualcosa da dire sul piano culturale, ma perché si voleva segnalare l'interesse reciproco, il governo nei confronti di queste occupazioni e queste occupazioni nei confronti del governo Berlusconi. Allora il punto però è questo: perché qualcuno a sinistra confonde i ragazzotti tatuati di Casa Pound con non si sa bene quale fenomeno punk di destra, gli animatori del Parco Lambro versione post-industriale? Se confusioni del genere potevano soprattutto essere fatte... No, aggiungo, che bisogno c'è di, in questo caso, Sinistra e Libertà, della persona di Vladimir Luxuria di dissociarsi completamente da, anche se mi dicono che Luxuria non è Sinistra e Libertà ma Rifondazione, a dissociarsi completamente da quello che è successo a Napoli, ossia la manifestazione antifascista dell'altro giorno sfociata in qualche tafferuglio contro le forze dell'ordine? Beh, sembra veramente un po' tutto paradossale quello che avviene. Io questa cosa che tu aggiungi non la conosco, diciamo. Adesso guardati, se vuoi ti leggo anche la dichiarazione, perché dice, e qui rientriamo in gioco: il nostro movimento gay, lesbo, trans non ha mai usato lo scontro fisico per far vedere le proprie ragioni, che nessuno osi strumentalizzare la questione seria dell'omofobia per giustificare chi vuole rispondere con la violenza alla violenza. Queste sono le parole di Luxuria di oggi, di questa mattina se non sbaglio. Sì, sì, ma io volevo inserirmi in questa discussione perché a me interessava moltissimo parlare proprio della rappresentanza. Prima di tutto, il movimento gay, lesbo, trans, GLBT nasce storicamente con Stonewall, e tirare una cosa contro chi ti impedisce di vivere tranquillamente è un atto di violenza e di ribellione nei confronti di chi te lo sta impedendo, e non c'è niente di... cioè è storia questo, quello che è successo a Stonewall a New York. Ma quello che mi interessava, riallacciandomi al discorso che facevi tu, è che io, vediamo tutti nella città di Roma, e fare una cosa a Roma non è esattamente come farla e proporre innovazioni, tra virgolette, innovazioni politiche in un'altra città, perché Roma è la capitale d'Italia, perché sono presenti tantissime formazioni politiche e perché è la città che viene guardata, insomma, come dicevi giustamente tu prima, come laboratorio politico, quello che si può fare. Ma nel momento in cui c'è, da parte appunto, che è la parte che più mi interessa e ci interessa, da parte di esponenti della sinistra, un tentativo spasmodico di dialogare sempre con la destra e di tacciare di intolleranza chi ha deciso che con il fascismo non vuole avere assolutamente nulla a che fare, non vogliamo avere scambi. E aggiungerei, chi rappresenta chi va a fare queste cose, visto che, voglio dire, queste persone che vanno lì sono tutte all'interno del mondo istituzionale, sono tutte persone che si candidano e sono tutte persone che hanno perso. Cioè, di conseguenza, anche prendendo i loro parametri, la loro rappresentanza in questo momento sta andando sempre più a diminuire. E io noto come tutti noi, un occhio di riguardo per tutto quello che si propone come nuovo e di destra, e assolutamente il silenzio e la censura come tutto quello che invece vive giorno dopo giorno, si organizza in questa città e altrove, è che come posizionamento politico ha principalmente l'antifascismo. E questa è la cosa che a me impressiona tantissimo: censurare tutto il resto del movimento in generale e arrogarsi il diritto di rappresentarlo. A me, se Paola Concia va a Casa Pound per i fatti suoi, poco mi riguarda. Il mio problema è che lei dice di andarci rappresentando qualcosa, e ci dice di andarci per migliorare questo paese. Non gliel'ha detto nessuno di di farlo, è una sua idea personale, è una sua posizione legittima, ma nell'ambito della rappresentanza pure lei fa parte di un partito che perde, esattamente come la formazione che citavamo prima, che è appunto Sinistra e Libertà. Cioè, quello che io vedo è che in questa città si fa finta che il dibattito all'interno delle compagne e dei compagni non esista e si va a parlare sempre con queste nuove formazioni, con una contrapposizione tra l'altro tra vecchio e nuovo, che mi ricorda tantissimo quello che dicono i fascisti. La cultura fascista dice che il nuovo va bene e che il vecchio va buttato via. E tra l'altro aggiungo l'ultima cosa e poi finisco: arrogarsi il diritto di giudicare chi ha deciso di avere e si sente di avere per i suoi percorsi una matrice fondamentalmente antifascista, che non è intolleranza, è proprio una maniera di essere, che ha diritto, per riprendere le loro parole, esattamente come tutti gli altri. Se noi non vogliamo parlare coi fascisti, noi siamo liberi di farlo, ma non siamo intolleranti, siamo un'altra cosa. Sì, io volevo aggiungere un elemento, perché credo che oltre al giudizio, diciamo, che si può portare sui comportamenti politici, ovviamente non parliamo di comportamenti individuali, ognuno può fare ciò che vuole, ma diciamo delle scelte politiche che costruiscono nello spazio di senso della città conseguenze che riguardano anche altri, no? Cioè in qualche modo costruiscono un percorso nel quale anche, come dicevi tu, chi la pensa in modo completamente diverso sembra essere rappresentato sulla carta da qualcuno a cui non ha mai dato questa delega. Io credo che sia importante anche chiedersi perché, no? Io propongo una interpretazione, che ovviamente è un'interpretazione tra le tante, quindi della quale si può discutere. Io ho la sensazione che qualcuno ritenga che questa operazione, e da cui credo, diciamo, si possa ulteriormente ragionare anche su un giudizio ulteriormente negativo su questa operazione, che questa operazione venga percepita da chi la agita, da chi la costruisce, di tappa in tappa, perché ormai le tappe sono molte, come una sorta di pacificazione dal basso, cioè come il coronamento di quella costruzione ideologica, culturale, che nel corso dell'ultimo decennio ha anche accompagnato l'affermazione delle destre a livello politico e culturale nel paese, quel revisionismo soft che è passato più che per i libri di storia, diciamo, per i salotti televisivi, modello porta a porta, no? Quel, diciamo, chiudere i conti con il Novecento, con le contraddizioni che aveva in sé, con i conflitti costitutivi, diciamo, della storia democratica italiana, e che hanno accompagnato sia il piano delle battaglie politiche e democratiche che quello delle battaglie sociali. Bene, è come se qualcuno dicesse che questo è l'ultimo anello, cioè siccome quel progetto è in qualche modo passato nell'opinione pubblica italiana, è probabilmente maggioritario, cioè c'è un'idea di superamento, no, delle contrapposizioni, delle differenze e bla bla bla, della fine in qualche modo dell'idea del conflitto come elemento che fa procedere, evolvere la società verso la conquista di sempre nuovi diritti. Bene, qualcuno ritiene che oggi, impossibile ormai il terreno del conflitto dal suo punto di vista, non più lecita l'idea della contrapposizione, si debba inseguire una pacificazione dal basso. E si pone quindi, proprio perché in qualche modo parliamo di culture della sinistra che spesso vengono da territori che hanno lambito i movimenti, cioè non parliamo solo del Partito Democratico, parliamo, si diceva Rifondazione, si diceva Sinistra e Libertà, cioè comunque di pezzi, diciamo, di culture politiche che sono state attraversate anche da che cosa accadeva fuori dal mondo della rappresentanza parlamentare, dei partiti, eccetera, eccetera. Che questo percorso si possa chiudere con un riconoscimento reciproco con l'altro sul piano del territorio, quindi non l'altro politico grande, i partiti della destra, Berlusconi, Alemanno, eccetera, eccetera, ma quell'altro che in qualche modo forse qualcuno ritiene come simile a sé, perché questo è il fondo del ragionamento. Chi dice dialoghiamo con Casa Pound ritiene in fondo Iannone e compagni sono degli avanguardisti culturali, degli innovatori, come noi percepiamo di essere, questo dicono coloro che fanno queste iniziative. Bene, che questo progetto sia la chiusura definitiva dal passo, con un'operazione che non è più quella appunto di Bruno Vespa o delle terze pagine culturali dei giornali, ma territoriale, giocata a partire da che cosa accade nella metropoli, eccetera, di quel processo di pacificazione, e che si senta chi lo fa, come dire, l'alfiere della chiusura di un percorso storico da cui l'enfasi che affida a questa operazione che sta conducendo. due parole e mi fermo. È evidente che la pacificazione, non di una guerra avvenuta, ma con un nemico, se vogliamo usare queste categorie così, diciamo, un po' nette, sì, un nemico vincitore, come è quello rappresentato dalla cultura prima che dall'esperienza organizzativa, perché il problema è che la cultura delle destre radicali giovanili è la medesima cultura intollerante che è al governo. Non c'è una contraddizione tra la legge contro gli stranieri e la difesa dell'italianità operata dai signori di Casa Pound. Questo deve essere chiaro a tutti, altrimenti stiamo parlando, come dire, per così. Perché il problema è che quella pacificazione non è una pacificazione in questo contesto storico, con questi interlocutori e con questa cultura intollerante che è dominante, ma è una resa, è uno smettere i panni e gli strumenti della cultura critica per dire non abbiamo più niente da dire. Questo probabilmente per coloro che lo operano è un passaggio di definitivo riconoscimento reciproco. Non so se vi ricordate, tanti anni fa, quando è iniziata tutta la vicenda del post-fascismo, il giochino era che D'Alema riconosceva Fini per dire io non sono più comunista, tu non sei più fascista. Partire da questo, come dire, possiamo costruire una nuova dialettica politica e le nostre personali fortune politiche, no? Come è evidente che poi è accaduto. Questo è l'ultimo anello, una pacificazione dal basso, fatta ovviamente non più dai tenori della politica nazionale, ma anche da coloro che hanno attraversato nelle ultime stagioni anche territori, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, affini, non dico interni, talvolta anche interni peraltro, ma affini ai movimenti sociali. Questo è il rischio, questo è il pericolo, questo non è un tabù ovviamente, ma è una cosa che va chiamata col proprio nome e sulla quale sarebbe utile aprire davvero una riflessione, perché è quel tipo di scenario dal quale ovviamente non si torna indietro. Sì, a questo credo che si debba aggiungere anche che poi tutto questo movimento, diciamo, converge anche nella legittimazione di interventi prettamente politici, legislativi anche, che rafforzano il clima che si è instaurato in questo paese, repressivo, razzista, eccetera. Porto un esempio, quello che si vuol dire dicendo noi ragioniamo con la destra, dice per esempio Paola Concia o altre persone vicino a lei, perché a noi interessa dei risultati concreti, e questi risultati concreti per esempio quali sono? Una legge contro l'omofobia, legge contro l'omofobia che obiettivamente il movimento CLBT chiede da una quindicina d'anni e che non è mai andata in discussione. Adesso la proposta c'è e andrà in discussione il 12 ottobre, ma se noi andiamo a vedere cos'è questa proposta, sono due righe che dovrebbero essere inserite nel codice penale, nel quale si definisce aggravante, quindi la motivazione omofobica a qualunque atto di violenza, quindi di fatto si chiede solo un inasprimento delle pene. Ma ancora più significativo è che questo articolo, che sarebbe il comma 11 ter dell'articolo 61, si andrebbe a porre giusto sotto il comma che introduce il reato di clandestinità sostanzialmente, cioè che definisce la clandestinità come aggravante di un qualunque atto, diciamo, criminoso. A me questa sembra una operazione di pulitura di facciata molto molto evidente, a cui si presta chi sottoscrive questa proposta, tirando dentro e strumentalizzando un fatto vero, cioè la crescita di una violenza che molto spesso peraltro ha una matrice politica su lesbiche, gay e trans. E poi è la questione centrale politica che dicevamo prima, al di là di veramente degli schieramenti, l'appartenenza, delle etichette che ognuno di noi si mette o si fa dare. Poi arriviamo ai temi politici, arriviamo a quelle che sono poi le leggi che vengono fatte dai partiti di governo all'amministrazione cittadina. Eccola la risposta. È semplicemente un po' come lanciare la fiaccolata contro l'intolleranza, mettere le due righe in cui si parla vagamente dell'omofobia, non ne viene fatto un problema reale, ma viene così buttato lì tanto per pulirsi la coscienza, però poi le cose non cambiano e nessuno riesce neanche a imporre poi il proprio tema politico. Ovviamente poi non inserendo quello che un reale movimento LGBT chiede da anni, e cioè l'istigazione alla violenza, perché altrimenti dovrebbero andare in carcere una marea di gente, da Calderoli a Ratzinger a Bagnasco a tanti altri, ma semplicemente appunto più galera per tutti sostanzialmente, e usando questa cosa come una pulitura, diciamo, di un'operazione vergognosamente razzista come quella del pacchetto sicurezza, insomma. Guarda, adesso abbiamo anche una telefonata che mandiamo subito, abbiamo un ascoltatore, proveremo anche in queste settimane di riflessione anche a coinvolgere chi ci ascolta, che ci sembra anche abbastanza il minimo. Dunque, buongiorno. Ciao. Niente, io volevo fare delle brevi considerazioni sul ragionamento che state facendo, che diciamo sostanzialmente condivido, però secondo me c'è un aspetto sul quale e andrebbe approfondito la riflessione nel momento in cui ci domandiamo perché Sinistra e Libertà o Rifondazione Comunista o PD o vari altri pezzi della cosiddetta sinistra diciamo così cancellano la discriminante antifascista dal loro agire, no? E questo secondo me va ricondotto principalmente su due aspetti, a parte uno di base, che è l'antifascismo non è una discriminante che identifica per sé soggetti di sinistra, no? Cioè l'antifascismo, quello del Comitato di Liberazione Nazionale a suo tempo, era formato pure dai democristiani o dai liberali. No, anche perché se pensi che, scusami se ti interrompo, che hanno acquisito l'antifascismo anche appunto gli appartenenti al PDL o formazioni del genere, no? C'era anche Bossi che si definiva antifascista qualche anno fa. Esattamente, quindi chiaramente non è quello l'elemento che identifica una scelta di campo, rispetto alla vita, rispetto all'agire sociale, rispetto all'autonomia dei movimenti sociali e così via. E quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto, che invece è quello che realmente differenzia, identifica chi sta in un campo, il nostro, quello dei proletari, eccetera, e chi sta invece a portare avanti interessi dei poteri forti o comunque dei poteri e dei dominanti, che magari a volte hanno pure dei scontri, anzi no, a volte costantemente hanno gli scontri fra di loro, rappresentano interessi fra di loro differenti, quindi magari ci sta una consorteria in guerra con un'altra e questo va bene, però poi dal punto di vista dell'oppressione e dello sfruttamento li troviamo tutti quanti insieme allineati dalla stessa parte. E l'elemento che fa questa differenza è l'identificazione del concetto di classe, cioè il fatto di dire, no? Cioè, nel momento in cui dei soggetti sociali riconoscono se stessi come soggetti proletari, quindi soggetti dello sfruttamento, soggetti dell'oppressione, soggetti del dominio, nel processo di liberazione è chiaro che si scontrano con tutti i poteri che determinano questo dominio, a partire dai fascisti, che sono l'elemento più, diciamo, materiale col quale ti confronti, e via via con tutte le altre istanze che diciamo, il dominio pone in campo. Nel momento in cui i soggetti della sinistra, appunto i Sinistra e Libertà e così via, negano questo elemento, l'altro giorno all'assemblea che c'è stata all'università sulla questione della casa, diciamo così, no? Quella di giovedì pomeriggio, c'è stato chi è intervenuto dicendo i palazzinari si sfruttano, fanno profitto sulla nostra pelle attraverso la speculazione e così via, con questo non voglio però assolutamente dire che sono marxista, come se fosse quello un elemento di, è questo discorso del no, noi non siamo del Novecento, tutto un filone di ragionamento che ha come esito soltanto quello dell'interclassismo, e quindi un esito che inevitabilmente ti porta a dialogare persino con i fascisti, così come con tutti gli altri. Allora, cioè, a mio avviso sarebbe il caso invece di riflettere e confrontarci con questo elemento, che è l'altro che fa il paio col fatto che questa sinistra è formata essenzialmente da persone che vivono dentro le istituzioni, i salotti, le varie istanze intellettuali, che non si misurano con la realtà della strada e quindi neanche la conoscono, fanno finta di interpretarla, ma insomma non sanno di che stanno a parlare. E secondo me, ecco, se approfondissimo il ragionamento su questi due aspetti, potremmo costruire un dibattito che ci è utile un po' a tutti quanti. Perfetto, ti ringrazio. Grazie, ciao. Ciao, ciao. C'est le reportage che vous allez entendre. Je mets un micro à la fenêtre, je pense. Andiamo verso la conclusione di questo spazio, visto che sono le 13:35, dunque siamo già a una cinquantina di minuti che stiamo parlando, dunque era soltanto un primo appuntamento, però come dicevamo provvediamo anche a coinvolgere i soggetti di cui stiamo parlando, perché a differenza noi il confronto realmente lo cerchiamo, e se dobbiamo anche sfancularci lo facciamo anche tranquillamente in diretta, non abbiamo nessun problema, anche perché vorremmo anche delle risposte e porre anche altre domande, per così, non semplicemente per curiosità, ma vorremmo tornare a parlare anche di politica con queste persone che poi stanno sempre lì, appunto, che vivono e campano di politica, e dunque noi siamo disposti anche a, appunto, a confrontarci, perché penso che abbiamo gli argomenti per poterlo fare. No, volevo semplicemente rimettere un punto su una I, diciamo, perché credo, con questo non voglio dare patentini di antifascismo a nessuno né fare classifiche ovviamente, però io non credo che in questa operazione si possa mettere esattamente sullo stesso gradino Sinistra e Libertà e Rifondazione, nel senso che Sinistra e Libertà ne ha fatto un'operazione dichiarata di questo dialogo con quello che chiamano l'altro, e quindi riconosciamogliela, cioè nel senso si prenderanno la responsabilità delle posizioni che hanno scelto di avere, ne stanno facendo una campagna stampa su quel giornale che si chiama l'altro e che se non sbaglio è, di cui se non sbaglio Sinistra e Libertà è l'editore, e questo ormai da almeno un anno, mentre appunto dall'altra parte si parla di una dichiarazione di Vladimir Luxuria gravissima a mio avviso, ma non è lo stesso investimento, diciamo, sulla questione di quanto invece ha avuto fin qui Sinistra e Libertà, e secondo me questo va sottolineato. Sì, lo usavamo anche questo proprio come paradigma della situazione in cui si sta vivendo. Ovviamente quando parliamo di confronto e di dialogo parliamo di quei pezzi di associazionismo LGBT di cui dicevamo prima, o anche appunto i giornalisti dell'altro, questi personaggi, tutto ciò che sta alla nostra destra, e ce n'è parecchio, non ci interessa. Noi, a differenza della Concia, noi non parliamo assolutamente con i fascisti, abbiamo questo problema, siamo degli intolleranti, sì. Ce lo rivendichiamo pure, magari adesso ci sarà qualche giovanotto della Giovane Italia che ci starà ascoltando, visto che sono dei nostri fedelissimi ascoltatori. Noi purtroppo siamo degli intolleranti, lo riconosciamo, non abbiamo nessun problema a dirlo, forse ne avete qualcuno in più voi di problemi a riconoscerlo, però questo è un problema vostro, andate in analisi casomai, visto che in quest'ultimo anno e mezzo abbiamo assistito a parecchie cose, tra cui Alemanno che ha scoperto i campi di concentramento, Alemanno, Croppi e via dicendo, stanno scoprendo un sacco di cose, forse è per questo che vivono questo nuovo fervore. Sì, tra noi c'è almeno un intollerante al glutine, ma tutti e tutte intolleranti ai fascisti, questo penso si possa dire. L'intollerante invece di quello che sta al telefono non è intollerante al glutine, perché visto la sua forma fisica, giusto? Grazie. No, dico solo un'ultima cosa, però credo che abbia senso comunque, proprio rispetto all'attualità dell'antifascismo, per non, diciamo, cadere nel rischio che si contrappongano, non dico dei cliché, però delle costruzioni già date per definite a quelli che si rappresentano come gli innovatori, no? Siamo attenti a questo tipo di trappola. Io credo che si debba ribadire un'idea, cioè il problema dell'antifascismo oggi è che ci sono culture, a parte le battute fatte da studio, culture dell'intolleranza, che sono quelle che segnalano il successo di questa destra nella società italiana, la ricerca costante del capro espiatorio, la definizione di una normalità che diventa anche normalità normativa di gestione attraverso le leggi, eccetera, eccetera, che attraversano la società. Gli avamposti territoriali di questa cultura dell'odio e dell'intolleranza sono anche i signori di cui abbiamo parlato fin qui, quella destra radicale che ha ovviamente cambiato di volto nel corso dell'ultimo decennio. Il problema è che per opporsi a questa cultura maggioritaria, per cercare di costruire gli anticorpi, il problema non è dialogare o non dialogare con questi, ma lavorare per la costruzione di una cultura critica che smonti e sottragga pezzi di territorio e di coscienza civile, individui, a questa cultura dell'odio. Questo è il problema. Pensare che tutto ciò accada con la pacificazione di fronte a una cultura egemonica significa semplicemente pensare, abdicare dalla necessità di fare il proprio lavoro, magari perché si scambiano pezzi di potere, di riconoscimento pubblico e quant'altro. È un po' quanto, questo, è un po' come questo è il vero problema e questo è il vero rischio, volevo dire solo questo. No, ma infatti guarda, personalmente, e mi rituffo nel glutine. Ci trovi molto d'accordo, visto che poi è un po' come quando diciamo prima, non ci si può accontentare di quattro telecamere su una piazzetta per poter prevenire o far fronte a quello che è il clima intollerante nei confronti della comunità lesbo omosessuale romana. No, era è questo che ci lascia, ci continua a far rimanere stupefatti. Per questo vorremmo rimettere al centro un po' la politica, quella con la P, poi no, quella con la B, a cui siamo abituati ad assistere. Proprio per gli stessi motivi che dici tu, non si fa fronte a un'intolleranza attraverso quattro telecamere o attraverso un inasprimento delle pene, se non c'è comunque un lavoro che vada proprio a scardinare quelle che sono poi le fondamenta dell'intolleranza stessa, le fondamenta di questo clima intollerante che ha sempre vissuto questa comunità, non è semplicemente che è cresciuto, sono anche le politiche che vengono portate avanti sistematicamente, quello che viene poi che determina il clima cittadino. Se tu per mesi osteggi qualsiasi cosa venga fatto da quella controparte politica, è evidente che in qualche modo, non dico che istighi alla violenza, però in qualche modo crei un clima favorevole alla violenza, punto. Non è che ci vuole un genio per arrivarci. Io volevo aggiungere un'altra cosa riguardo proprio la gestione di questa città. È appunto come dicevi prima tu, la risposta che si dà a diverse cose che accadono. Ieri nel quartiere, stavolta veramente nel quartiere di Torbella Monaca, c'è stata una grossissima operazione di polizia, c'è stato un intero comparto che è stato perquisito, sono stati fatti dei posti di blocco perché a quanto pare stavano facendo una grossa operazione contro il traffico degli stupefacenti, insomma questa cosa. E questa è una risposta che, voglio dire, non mi lascia stupita da parte della gestione dell'ordine pubblico. Altre cose, e io non ambisco a che queste pratiche diventino quotidiane, ogni volta succede qualcosa, non succede la stessa cosa però, guarda caso, quando invece ci sono aggressioni che fanno finire persone all'ospedale, che fanno finire, che fanno perdere occhi a persone, come è successo in quell'immenso quartiere. E tengo a specificare, non è che io voglio che ci sia la polizia ogni giorno a perquisire tutte e tutti, ma questa è la misura della risposta che questa amministrazione, unita alle forze dell'ordine, dà risposte diverse a accadimenti diversi. Non c'è stato lo scandalo e la messa in mezzo appunto di tutti quelli che devono scovare i cattivi quando in quel quartiere, come in altri quartieri, sono avvenute queste aggressioni. 13:45, nel frattempo abbiamo fatto, e possiamo usare quest'ultimo intervento per andare a chiudere, perché sono quasi un'ora che parliamo ininterrottamente in questo fiume di parole che è stata la mattinata di Radio Onda Rossa. Innanzitutto ringraziamo il nostro redattore da casa, comodamente da casa. Ci sentiamo presto con te martedì alle 12:20 durante lo spazio di Maldestra. Dunque a presto, ciao. E con il resto della redazione di Radio Onda Rossa l'appuntamento probabilmente sarà sabato prossimo. Comunque proveremo a tenere questo filo comunque tirato nelle prossime settimane, perché ci sembra opportuno, ma soprattutto anche per noi stessi, per riflettere insieme, visto che siamo i primi poi spesso e volentieri a non avere le risposte su quello che ci viene, che ci accade attorno. Ora un po' le domande ce le abbiamo, se non sbaglio. Ciao.